Antonio Scappa. Mi permetta 5 minuti, provo la stazione in camera da letto che mi ha messo il capo. Sì, già sono qui. Io la faccia l'ascolto. sarà così che l'ascolto, mi hai capito? Quindi deve avere il punto proprio giusto, deve essere culone, hai capito? Che c'hai quello spazio per poter interagire con gli altri. Lo so, io non sento mai a nessuno, qua è un casotto. Adesso io non stavo entrando perché stavo facendo documentazione e cose del genere, hai capito, Natalia? E quindi mi è impegnato mattina e sera da una cosa all'altra, però mi sono guardato i filmati e ti sto dicendo che c'è il PMR imbatte, ha voglia che imbatte, con quei brondi specialmente. Con quei brondi? Quei brondi, sì, i brondi stanno usando. I brondi quelli portatili, già li conosci. Ma te lo fai su Facebook, se ti dico il sito, aspetta. Vediamo se è scuoto a Ciappallo. Perché me l'ho scritto di lì, me l'ho scritto. Vediamo un po'. Adesso lo cerco. PMR 446, LPD 443, B27 Italy. Ho capito. Oppure c'è l'altro, operatore radio CB, PMR Italia. Puoi fare tutti e due, come così. Vai lì e scrivi e ti guardi i filmati. Ma sono veramente belli. Ti fa vedere come lui parla dalla montagna, verso il mare, sono un po' di chilometri in linea d'aria, ma pompano. E quando è stato libero, sì, è qua in città che non piglia da qui a lì. Le prenderò da web 6, non ti preoccupare, se sei in un punto buono, a voglia se prende. Io con la direttiva, se ti ricordi bene, quando ho piazzata col motore parlavo tranquillamente con le nave a crociera che c'erano giù al Gheromi, oppure a Porto Torres, li sentivo tutti. Poi l'avevo staccata e se ti ricordi poi, c'è la cosa che adesso non ho più sentito, c'era un CB che aveva piazzato il ponte addirittura in PMR, le prime volte che parlavo lì, usavamo il ponte, ci divertivamo. Io capisco. Adesso è un po' di tempo che non sto più usando il PMR, anche perché stavo facendo altre cose, quindi. Però a voglia si rende, cazzo. Guarda che io ho parlato tranquillamente da Sassari con Tempio Mico. Solo te lo faccio dire, anzi, qualche giorno se passi qua te lo faccio direttamente da lui. E lui c'ha il PMR in macchina con l'antenna magnetica. E io da casa con l'antenna mia, con la verticale, e guarda che io 27 a Tempio non ci arrivo. Beh, io sono arrivato tranquillamente a Tempio proprio paese mi. Sì, grazie, con l'antenna esterna. Io con l'antenna esterna e lui con l'antenna della macchina, con la magnetica. È roba che non ci arrivo, in 27 io con l'antenna esterna a Tempio non ci arrivo da qua a me. Fosse stato in via Vizzetto sarebbe stata un'altra cosa. Questo è poco ma sicuro. Abusivo! Altro mi pirata! Ciao Marco, salutoni! Ciao per me. Scusate, sto mangiando, sono di passaggio, un salutone a tutti, dai, continuate, io vado via. È sempre il passaggio, sì, cazzo, la benedizione, c'ha via, insomma. Babbo sta mangiando. E io faccio come la cometa di Halley, no? Passano i 76 anni, mia adesso è arrivato a fine corsa e sta tornando indietro verso di noi. Dai, sto facendo roba, se non sei rientrato. Ciao a tutti, ciao. Vai Antonio, ciao Natalino, ciao a tutti. Ehi, ciao Marco, ci sentiamo. Non c'è problema. Ciao Marco, ciao. Ah, Natalia, a proposito, quella cosa che volevi fare, il carico, l'hai fatto? No, perché non mi è arrivata ancora quella resistenza. Ah, ok, va bene. Ok, ciao di nuovo, ciao. Ciao, ciao. Ciao Marco, buonasera, dopo. Io non c'è problema. La manta va a casa. E beh, in pratica quando ho aperto la pagina di sotto mi è rimasto il cavo in mano, quello che è agganciato a bullone. Non senti, disaggettami. Da dentro. Adesso l'ho smontata. E sono fortunato, almeno. Ritorna come prima, come nuova. E gli metti il cavo come si deve. E quello da uno. Il cavo da uno c'ami, non è che ci abbia questo gran cavo lì. Ma neanche uno, perché è un cavo fine. Anzi, quello da uno l'ho usato per fare un dipolo, figurati. Adesso li metto il cavo da 1,5 o 2. Faccio la bonifica, gli metto l'occhiello, l'aggancio come si chiama all'interno, poi gli metto il bullone all'esterno, non lo tocco neanche i ribattini. Già, non faccio come l'altra volta quando ero in campagna, avevo staccato i ribattini per poter lavorare meglio. Questa volta non li stacco, prendo una pizza a becco di quelle lunghe dal meccanico che c'è qui sotto alla cuvette, ci infilo il bullone, lo blocco e poi una volta che è fissato con quell'occhiello, boh, prendo il stringo e è fatta. E ha giù capito. E allora Marco non si scioglie, trattava la vostra. Si perdono, cioè in fesserie in pratica, perché l'antenna è costruita per 1 kW, allora io lo metto 1 kW già, e dura 20 secondi, dura. E tu metti quello più grosso il capo, no? Guarda, se avevo avuto solo gli avevo messo il capo placato io lo metto, gliel'avevo saldato al PL. E aveva messo il cavo placato in oro. Sì, metti il cavo grosso è normale, gli andare. Perché con quello fino non va tanto bene. A me sono avvisato infatti. Ho fatto la foto, aspetta che mi sta chiamando Pietro, bene. Poi con lui parlo in PMR, aspetta un secondo. Natale, ti richiamo dopo che sto scendendo a portargli il PMR a Pietro. Ci sentiamo fra